Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti da parte mia e da parte naturalmente anche della redazione, da Anita Panizza e da Mauro De Angeli, questa mattina in regia. Oggi voglio cominciare parlandovi di diete, perché ci sono diversi spunti sui settimanali, sui mensili che guardiamo come ogni settimana, appunto, e si preoccupano di diete. La cosa non è sorprendente, questo è il periodo in cui ci si preoccupa anche dell'estate, del fatto di potersi scoprire di qui a poche settimane, di magari recarsi al mare, e quindi ci si preoccupa di più del proprio aspetto fisico. Da qui anche la passione per le diete, da qui l'attenzione dei magazine. Panorama sceglie addirittura di mettere questo tema in copertina. La copertina è appunto i dietomani. Si parla di dimagrire a tutti i costi, tic, abitudini ed errori dei forzati delle diete, dice un'inchiesta, smonta i falsi miti, svela la ricetta giusta per superare la prova costume. Il lancio di copertina è un po' sintetico, diciamo che la ricetta giusta poi consiste soprattutto in questa chiacchierata che l'autore dei servizi ha fatto appunto a alcuni dietologi, alcuni specialisti famosi, che qua e là sfatano anche dei miti magari molto in auge. Secondo Giuseppe Marinari, ad esempio, chirurgo dell'obesità al centro Humanitas Gavazzeni di Bergamo, secondo Marinari, quella delle intolleranze alimentari, che è un tema molto sentito, molto noto in questi anni, è una boiata. Lui e la collega dietologa Stefania Setti spiegano che attorno alle intolleranze ruota un mercato enorme, ma in realtà è una presa in giro, perché finiscono per dirti che sei allergico a qualcosa di esotico e poi dicono a tutti di evitare lievito, latte e derivati. Ora, se si leva a qualcuno la pasta, il pane, il formaggio, il vino e lo si mette a bistecca e insalata, beh, questo signore dimagrirà per forza. Allora forse non c'era bisogno, argomenta Marinari, di tutta questa manfrina. Ma se quella delle intolleranze può essere una moda, tutto sommato controllabile, più pericolose appaiono altre diete, altre tentazioni di dieta che magari si trovano facilmente su internet, ma che se seguite con troppa faciloneria possono essere persino pericolosi. Tra quelle che adesso vanno di moda vi segnala Panorama la dieta GIFT, G-I-F-T, è una dieta per ridurre la massa grassa. Più che un controllo stretto delle calorie, c'è un'attenzione sul consumo di carboidrati. C'è la dieta giapponese, i giapponesi sono tra i più longevi e sani al mondo, e quindi in 30 giorni bisogna assaporare i cibi tipici della cucina giapponese. Qui l'esperto in realtà consiglia di non abbandonare la dieta mediterranea, che è adeguata alle nostre esigenze. C'è la dieta del crudo, cioè mangiare solo cibi crudi. In realtà l'esperto consiglia piuttosto di utilizzare metodi magari di cottura delicata come il vapore. La dieta tisanoreica, che è basata su un regime ipocalorico, insomma si assumono meno calorie e naturalmente si dimagrisce. La dieta dei 17 giorni, eccetera eccetera. Su tutte queste diete, tutte queste tentazioni, però, ancora Marinari dice: qui siamo alla riedizione dei 7 kg in 7 giorni, però il problema è un altro. Una volta perso questo peso, che cosa succede? E qui interviene appunto Stefania Setti, che è dietologa, e dice: a parte i problemi collaterali di una dieta di proteine, dimagrire così tanto in poco tempo significa perdere massa muscolare. Quindi, se elimino 10 kg in un mese, se va bene, vuol dire che ho perso 5 kg di muscoli e 5 di grasso. Però appena si torna a mangiare, si prenderanno 7 kg di grasso e 3 di muscoli. Quindi si tornerà al peso di partenza, però con un problema in più, perché si consumerà di meno, perché è il muscolo poi che brucia energia e consente di mantenere appunto la forma fisica. Divertente la provocazione finale di Marinari, che dice: sarebbe meglio chiudere gli studi di dietologia da aprile a giugno, quando la gente pensa all'estate. E forse non ha tutti i torti, pur nel suo atteggiamento provocatorio, Marinari, perché, come dire, curiosando qua e là tra i magazine, due piccole cose. Allora, secondo una piccola segnalazione che trovo da star bene, la dieta fa diventare più intelligenti. Perdere chili superflui serve a riconquistare la sicurezza in se stessi, oltre che a tornare in forma, ma c'è di più: dimagrire aiuta anche a migliorare la memoria e la concentrazione. Studio di un'università americana dell'Ohio, il team ha analizzato un gruppo di pazienti obesi sottoposti a interventi per la riduzione del grasso corporeo. Il risultato è stato che le capacità cognitive e l'abilità nel risolvere i problemi qualche settimana dopo le operazioni miglioravano visibilmente. Beh, questo, con tutto il rispetto anche per questi signori, questi medici, se uno ha un grosso problema di obesità, è decisamente sovrappeso, come magari ci capita di vedere in qualche caso appunto patologico, non mi sembra così strano che, migliorando dal punto di vista del peso, possa migliorare anche come reattività mentale. Ma un'altra piccola cosa legata sempre alle diete: attenzione, perché portare in passerella modelle più in carne potrebbe far scatenare l'obesità. Questo almeno riferisce, questo avverte Gaia Giorgetti su Two Style di questa settimana. Anche qui uno studio che però è uno studio italiano, due ricercatori dell'Università di Bologna hanno presentato a Londra questa loro tesi, e la loro tesi sostanzialmente è che se in passerella sfilano modelle paffute si alza il rischio di obesità a livello generale. La tesi, spiega Gaia Giorgetti, sta scatenando un pandemonio su internet. L'hanno poi ripresa i vari mostri sacri del web, l'Huffington Post e così via, però nessuno sembra disposto a sposarla fino in fondo. Il fatto che le modelle oversize, a parte che bisognerebbe capire oversize rispetto a quelle magari più anoressiche, e quindi come, cosa intendiamo per modelle paffute nelle passerelle della moda. Le modelle oversize, il fatto che possano causare un disturbo alimentare, quindi portare a un aumento dell'obesità, insomma, non sembra convincere, anche se l'obesità effettivamente nei paesi più sviluppati è una piaga sociale, interessa ormai, ricorda Gaia Giorgetti, dal 40 al 60% della popolazione. Molto prudente il giudizio che dà di questa tesi Nazario Melchionda, che presiede la Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Lui dice: io escludo che una modella formosa influenzi l'obesità. È invece possibile che una modella magrissima inneschi meccanismi che portano all'anoressia, però non ne sono la causa. La moda in realtà è un provocatore potente, spinge a tenere magari un'alimentazione sbagliata per risolvere un disagio. Insomma, funge da reagente, però alla base è la tesi di Melchionda: devono esserci una predisposizione legata magari all'età e all'ambiente e un malessere profondo. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. E allora avrete fatto caso che questo non è il nostro abituale stacco musicale, quello che utilizziamo per interrompere una segnalazione da altre. Questa è la voce di Ella Fitzgerald. Perché la voce di Ella Fitzgerald? Perché da giovedì, con il Sole 24 Ore, vi stiamo proponendo una collana che si chiama I Miti del Jazz. Sono 25 CD in cui sono raccolti tutti i grandi nomi, i più grandi nomi di questo genere musicale. Il primo CD, che è uscito giovedì scorso, è proprio quello dedicato a Ella Fitzgerald. Comprende anche una serie di articoli di indicazioni sulla biografia e sulla carriera di questa cantante, e poi seguiranno ogni giovedì altri 24 CD. Il secondo sarà dedicato a Miles Davis, poi avremo Glenn Miller e più in là ancora Louis Armstrong, Dave Brubeck, insomma un po' tutti i, come vi dicevo, i grandi nomi di questo genere musicale. Abbiamo voluto presentarvelo così, in un modo un po' diverso, facendovi sentire un piccolo assaggio della voce di Ella Fitzgerald. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando, vi avevo promesso meglio di parlarvi di uno dei paesi più armati al mondo, e si tratta della Svizzera, forse in modo sorprendente trattandosi di un paese storicamente neutrale, storicamente non belligerante. Però così segnala il è il mensile del Sole 24 Ore, è in edicola da venerdì con il nostro quotidiano, lo trovate naturalmente anche oggi, anche nei giorni successivi, sempre con il Sole 24 Ore. Da Berna, Alessandro Giberti spiega che il vizio delle armi in Svizzera a quanto pare è di quelli antichi, perché in una storia illustrata a colori della Confederazione Svizzera, una storia del 1513 che si chiama la Luzerner Schilling, si vedevano raffigurati appunto dei cittadini svizzeri balestre alla mano che colpivano bersagli in occasione di qualche raduno, di qualche festa, precursore appunto degli Schützenfest, festival dei tiratori di precisione che ancora proliferano in Germania e in Svizzera. Insomma, la relazione, scrive Giberti, tra gli elvetici e i proiettili, soprattutto quelli dei fucili d'assalto militari, è tanto insospettabile quanto profonda. Ci sono 46 armi da fuoco ogni 100 abitanti nella Confederazione. E con questa percentuale, appunto il 46% di armi per cittadini, per popolazione, la Svizzera risulta percentualmente il terzo paese più armato al mondo. Il più armato al mondo sono gli Stati Uniti, e seguiti dallo Yemen, ma subito al terzo posto c'è la Svizzera. Questo avviene soprattutto grazie a una legislazione che ha storicamente consentito, sono sempre parole di Giberti prese da Hill, storicamente consentito agli abitanti dei 26 cantoni che l'avessero chiesto di portarsi a casa il fucile d'assalto oppure la pistola al termine dei 3 mesi di leva obbligatoria, leva che viene imposta a tutti i cittadini maschi tra i 18 e i 30 anni. Le richieste evidentemente devono essere state molte. Al momento il numero di armi detenute dai cittadini è altissimo, sta tra il 1.200.000 e 4.500.000. Questa forbice nel dato, perché effettivamente non è proprio la stessa cosa dire che le armi sono 1.200.000 o 4.500.000, è dovuta al fatto che fino al 1999 non si dovevano neppure registrare queste armi, quindi il possesso delle armi non era nemmeno monitorato dallo Stato. Di recente, a febbraio, è ancora da Hill, gli svizzeri sono stati chiamati a votare un referendum che si proponeva di interrompere questo costume armaiolo, però hanno vinto i no, le armi quindi hanno potuto continuare a resistere indisturbate sopra i camini. E d'altra parte, seppure si possa ufficiosamente far risalire la neutralità elvetica al 1515, sembra che le città svizzere, dove la criminalità di strada non è esattamente a livelli di Caracas, siano ossessionate da un possibile attacco straniero. Tutto questo su Il in edicola con il Sole 24 Ore. Passiamo invece all'Espresso, perché Umberto Eco sembra avere, come dire, ripreso un'inchiesta che avevamo condotto anche sul Sole 24 Ore mesi fa. La nostra inchiesta si chiamava www.verità e ruotava attorno a questo tema: internet come luogo dell'inganno, o per dirla in un modo più colorito, come luogo delle bufale. Effettivamente la rete è un gran contenitore di notizie fasulle, farlocche, che, o come si usa dire appunto in gergo, di bufale, notizie assolutamente inventate o insensate, da quelle più fantasiose legate magari a fatti anche tristi di cronaca di cui si argomentano complotti di vario genere, fino proprio a notizie false riferite a personaggi più o meno famosi. Umberto Eco, nella scorsa bustina, come lui stesso ricorda, aveva raccontato che in pochissimi giorni erano apparse su internet 4 notizie false sul suo conto, e lui appunto era stato anche in difficoltà a smentirle, e diceva questo, argomentavo nella rubrica precedente, secondo me dovrebbe metterci in guardia nei confronti di questo strumento. Uno strumento come internet, essendo nelle mani di chiunque, è ricco inevitabilmente di inesattezze o addirittura di bufale. non l'avessi mai fatto, scrive questa settimana Umberto Eco, proseguendo nella sua lotta alle bufale via internet. Invece di apprezzare questa esortazione critica a non prendere mai nulla per oro colato, sono stato criticato da varie parti come apocalittico, luddista, misoneista, intristito nel suo rifiuto delle magnifiche sorti e progressive. Mi è stato obiettato che tutte le false notizie di cui parlavo erano già apparse sui giornali o sulle agenzie di stampa, soltanto dopo erano state diffuse da internet. Però, dice Eco, qui è un po' come dire che se un quotidiano scrivesse che Bin Laden è vivo e vegeto in Guatemala perché così ha detto un montanaro boliviano coltivatore di coca, beh, allora la responsabilità della diffusione di questa falsa notizia, di questa bufala, non sarebbe del giornale ma sarebbe del montanaro. Dice, io le notizie di quei quattro falsi le ho avute da internet, perché non mi era capitato di avere tra le mani le fonti giornalistiche in questione, alcune delle quali magari erano arrivate a poche migliaia di persone, mentre una volta amplificate su internet hanno raggiunto persino me. Divertente come prosegue la sua rubrica, dice che la stampa dia spesso notizie false è una storia vecchia, tanto che già Oscar Wilde, in uno dei suoi paradossi, lamentava il declino della pubblica moralità e diceva che ormai persino i giornali davano notizie vere. Ma con internet abbiamo una mutazione quantitativa impressionante e ci sono purtroppo dei casi in cui la quantità si trasforma in qualità. E vediamo invece quando la quantità si trasforma in qualità in senso positivo, parlando di calcio e di no profit. Oggi giornata calcistica ancora, anche se il campionato, come sapete, la massima serie italiana, ha già dato il suo verdetto più importante. Su Vita di questa settimana una bella classifica diversa, ma non così diversa poi dalla classifica attuale del campionato, su quanto fanno le società di calcio per il no profit. Vince questa classifica, al primo posto di questa classifica, che è stata stilata da Luca Corsolini, esperto di sport sociale, il Milan. Anche qui voto 9 per Fondazione Milan, è un colosso del no profit, ha 6 milioni di euro di raccolta, 82% dei fondi assegnati e soluzioni anche originali che coinvolgono 16 paesi. Appena al di sotto del Milan l'Inter con Intercampus, che ricorda appunto Vita, fa indossare ogni anno a quasi 10.000 ragazzi in tutto il mondo la maglia nerazzurra. Ne è stato ricavato anche un film diretto da Salvatores e naturalmente l'Intercampus è attiva anche in Italia. Terzo posto, diciamo, vedete come si rispecchino poi quasi i valori in campo anche nel no profit, l'Udinese, nata nel 98 per iniziativa della First Lady Giuliana Linda Pozzo, Udinese per la Vita, questo la società no profit che fa riferimento alla società di calcio, sviluppa un gioco di squadra con i tesserati e ad esempio di Natale ha devoluto la sua quota del premio per il raggiungimento dell'Europa League a un'associazione attiva nel sostegno delle famiglie di bambini con patologie onco-ematologiche. E poi via via tutte le altre squadre citate appunto con una sorta di voto, di votazione sintetica e la presentazione delle varie iniziative. C'è anche la Fiorentina, il Cesena, la Juventus, il Lecce, il Genoa, il Cagliari, il Bologna, mi scuso con le altre che non cito, naturalmente parlare di calcio è sempre pericoloso perché si rischia di offendere e urtare la suscettibilità di qualcuno. Con questa citazione si conclude la nostra puntata di oggi. Grazie ancora a Mauro De Angeli questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare anche questa puntata. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it, volete informazioni sui nostri programmi www.radio24.it. Buona domenica a tutti.